Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Ieri manifestazione in difesa della Costituzione. Bisogna difendere la Costituzione, bisogna applicare la Costituzione, bisogna anche cambiare forse la Costituzione, che ha un articolo, il 138, appositamente votato dai costituenti 61 anni fa, il quale dice: potete cambiarmi con un regolare voto a maggioranza semplice, procedure un po' più complicate, perché insomma prima di cambiare la Costituzione dovete riflettere. E invece c'è un grande psicodramma dall'articolo di Mario Aiello sul Messaggero di oggi, che commenta Piazza Fredda. Si parla di Piazza Santi Apostoli a Roma, dove appunto si è svolta ieri la manifestazione in difesa della Costituzione. Piazza Fredda perché si gela, Piazza Fredda perché l'idea di convocarla, la manifestazione, nacque a caldo sull'onda delle parole di Berlusconi, ma poi sono passati i giorni, si è smosciata l'atmosfera e allora, prosegue Mario Aiello, si riempie solo la metà della mezza piazza Santi Apostoli, in cui, circondato sul palco dai ragazzi, sì, questa è un'innovazione che non ho capito, c'era un grande palco pieno di ragazzi e nessun leader, i leader stavano tra la folla. Scalfaro tuona e illustra le virtù eterne della carta minacciata dal berlusconismo. E i ragazzi sul palco. Dice: chi sono, prosegue Mario Aiello, i tronisti, ironizza qualcuno, e gli viene risposto: sì, i tronisti della Costituzione. Va bene, cominciamo con un po' di irriverenza, perché mi sono stufato di tutto questo ossequio conformista alla Costituzione. L'abbiamo cambiata sostanzialmente per due motivi. Il primo, far tornare Vittorio Emanuele IV, che insomma sì, era giusto farlo, ma che gli eredi maschi di Casa Savoia possano fare i turisti in Italia quando gli aggradano, mi sembra un cambiamento così interessante e importante. E il secondo, abbiamo abolito l'articolo 68 in un anno, il 1993, l'anno del grande terrore, in cui si abbattevano tutti i partiti che avevano firmato la Costituzione, perché tra l'altro noi non cambiamo la Costituzione, ma abbiamo fatto in modo che Di Pietro, Borrelli, D'Ambrosio e gli altri facessero fuori tutti i partiti che hanno firmato la Costituzione. Non esiste più nessuno con quel nome, nessuno con quella classe dirigente, nessuno con quella continuità culturale. Infatti, quando si riuniscono a difendere la Costituzione devono prendere Scalfaro, Oscar Luigi Scalfaro, presidente emerito della Repubblica, un uomo che quando è stato presidente della Repubblica la Costituzione ha saputo, diciamo così, maneggiarla con una certa disinvoltura, devo dire, proprio nel rapporto col governo. Molti equivoci, molte cose un po' assurde intorno alla Costituzione. Forse ho cominciato in modo un po' troppo irriverente, adesso devo diventare un po' più prudente. 800 24 00 24, qui la realtà è questa: ci sono due presidenti, uno sta al Quirinale, l'altro a Palazzo Chigi. Uno è eletto dal Parlamento, quindi un'elezione di secondo grado, l'altro è eletto in termini concreti direttamente dal popolo, da quando abbiamo avuto leggi elettorali maggioritarie e messo il nome del candidato guida della coalizione nel simbolo. E questi due presidenti hanno prerogative, attributi e poteri che entrano in conflitto potenziale tra di loro, e il tutto non è ben regolato. Devo tirare le orecchie a Marcello Sorgi, che è un mio caro amico ed è un importante notista politico, osservatore politico, ed è stato direttore del TG1, della Stampa, insomma un pezzo da 90 del giornalismo italiano. Ha scritto un articolo oggi sulla Stampa con dentro una contraddizione fatale. L'articolo, intitolato Carta canta, dice: la Costituzione è validissima, importantissima, bisogna difenderla, eccetera eccetera. Poi però scrive: in nessun paese al mondo esiste un conflitto così inestricabile tra potere centrale e locale sulla base della Costituzione, o una completa identità di funzioni tra due camere che si paralizzano a vicenda, oltre alla concreta impossibilità di qualsiasi governo a realizzare il proprio programma. Beh, se questa è la Costituzione, se questi sono gli effetti della Costituzione, forse qualche ritocco, qualche cambiamento sarà necessario. Bene, 800 24 00 24, cambiare o no la Costituzione, come risolvere la guerra potenziale tra i due presidenti, quello che sta al Quirinale e quello che sta a Palazzo Chigi. Abbiamo al microfono Pierluigi Battista, vice direttore del Corriere della Sera, che saluto e ringrazio, Gianluigi Paragone, giornalista di Libero, che saluto e ringrazio, ma comincerei con Marta Cartabia, docente di diritto costituzionale all'Università Milano Bicocca. Perché comincio con Marta Cartabia? Perché perché la domanda è tecnica, ma ha un contenuto politico. Si insorge sempre quando si parla di cambiare la Costituzione. Ora, in America c'è una Costituzione, la più antica Costituzione scritta, diciamo, nel mondo civilizzato. Per cambiare la Costituzione in America ci vuole il verdetto positivo, mi pare, di 3/5 degli stati, 50 stati, quindi i parlamenti di ciascuno di questi stati deve dare un verdetto positivo. Sì, cambiamo la Costituzione, facciamo un emendamento alla Costituzione. E addirittura ci vogliono i 2/3 o qualcosa di più, addirittura credo dei voti del Senato, del Congresso più in generale. Da noi invece la Costituzione, professoressa Cartabia, si può cambiare per volere di chi è autore della Costituzione. La Costituzione promulgata nel 48 e scritta, varata nel 47, in un clima di grande divisione politica del paese, soprattutto nella seconda parte del varo della Costituzione. Allora, questa Costituzione così sacrale, nata da un accordo di ferro, nonostante l'inizio della guerra fredda, eccetera, a cui hanno partecipato tutti, comunisti, democristiani, socialisti, liberali, terze forze, laici, eccetera, eccetera, eccetera, i grandi padri della Repubblica hanno detto: per cambiare la Costituzione basta un voto a maggioranza semplice. Basta mettersi d'accordo. Le procedure sono allungate, complesse, il Parlamento deve riflettere, deve votare 2 volte la doppia lettura, ma il voto è a maggioranza semplice. Perché? Allora, intanto saluto tutti e ringrazio di questo invito. Dunque, c'è una procedura particolare anche nella Costituzione italiana per la sua revisione, non è modificabile come un'altra legge. L'articolo 138 che lei ha ricordato prevede appunto una doppia lettura da parte di entrambe le Camere, per la verità con un irrigidimento, un voto, una maggioranza più forte nella seconda lettura, che deve essere almeno con la maggioranza assoluta dei componenti, cosa che non è prevista per le leggi ordinarie. Nell'eventualità che la maggioranza in seconda lettura sia particolarmente ampia, arrivi oltre i 2/3, quindi coinvolga maggioranza e opposizione, la procedura finisce lì e può essere promulgata la revisione della Costituzione, cosa peraltro quasi mai avvenuta. Normalmente le revisioni che sono state fatte, oltre a quelle da lei ricordate, anche l'importante revisione del titolo quinto della Costituzione nel 2001, l'articolo 51, insomma altre revisioni puntuali sono state fatte, si è seguita la prima strada. Nella seconda lettura è stata richiesta e si è raggiunta la maggioranza assoluta. In questo caso c'è l'eventualità del referendum che, come ricorderanno anche tanti ascoltatori, è stato per esempio celebrato in occasione dell'ultimo tentativo di riforma importante che avvenne sotto il precedente governo Berlusconi. Quindi è sì una procedura più semplice rispetto a quella americana che lei ha ricordato, dove le modifiche costituzionali sono quasi impossibili, comunque molto molto rare, gli emendamenti che si aggiungono al testo costituzionale avvengono molto raramente. Da noi è più facile, ma in ogni caso è una procedura distinta rispetto a quella della formazione delle leggi ordinarie, non è in mano soltanto alla maggioranza che governa. Governare e riformare la Costituzione sono 2 cose diverse, ovviamente, con anche delle ricadute in termini di procedura. Su questo credo che possiamo essere d'accordo. Governare e riformare la Costituzione sono certamente 2 cose diverse, ma insomma mi pare che su questo c'è consenso da parte sua, professore. La Costituzione italiana ha procedure di revisione, di autorevisione distinte da quelle delle altre leggi, c'è più attenzione, più cura, c'è la possibilità del referendum, eccetera, però si può cambiare con la stessa maggioranza sostanzialmente, sebbene nella seconda lettura si tratti della maggioranza dei componenti dell'Assemblea e non dei voti validi presenti, nello stesso modo delle altre leggi, cioè con una maggioranza semplice, al contrario di quello che succede in sistemi costituzionali, diciamo, più chiusi. D'accordo. Posso aggiungere una cosa? C'è il grosso dibattito sulla irrivedibilità della prima parte della Costituzione, cioè della parte che contiene diritti e doveri, perché un'interpretazione molto consolidata ritiene che mentre la parte, diciamo, organizzativa dei poteri, del ruolo del governo, della struttura delle Camere, eccetera, possa andare soggetta a revisione, sulla prima parte da molto tempo, anche con pronunce della Corte Costituzionale, si è detto lì non ci si mette le mani. Ma e perché? Questo sì, è si è detto cosa vuol dire intervista. Si è detto nel senso che ci sono delle decisioni che ritengono, per esempio una decisione dell'88 che ritiene che nel testo della Costituzione c'è l'articolo 139 che sottrae alla revisione costituzionale la forma repubblicana. Sì. Ed è l'unico limite esplicito. Però, certo, siccome nella prima parte si fa riferimento a diritti inviolabili, a dei punti di non ritorno, ricordiamoci la storia, quei diritti sono stati scritti per evitare che qualunque tipo di potere, anche democraticamente eletto, potesse calpestare la persona umana. La persona, allora le minoranze, si è detto, certo, lì non si torna indietro. Mi spiego? Sì, si è detto, però insomma, tecnicamente si è detto nel senso che c'è anche la Corte Costituzionale che parla di limiti assoluti alla revisione costituzionale, quindi ha un valore. Ho capito, però se il Parlamento si riunisce e decide dell'articolo primo della Costituzione, l'Italia è una repubblica fondata sulla libertà e non sul lavoro, diciamo, non è un golpe, può farlo. Potrebbe essere un po' problematico questo aspetto. È problematico, però nella Costituzione c'è scritto che siamo autorizzati a farlo. Poi, certo, ognuno potrà avere le sue opinioni, ma possiamo farlo. Sì, diciamo che il testo della Costituzione è un testo ampio che deve essere sempre interpretato anche alla luce di come i giudici, in particolare, certo, la Corte Costituzionale, che è il suo interprete privilegiato, e anche la prassi degli organi lo hanno poi applicato. La prassi, la prassi, questa divinità italiana in nome della quale si compiono molti misfatti. Comunque, professoressa Cartabia, grazie dell'expertise. Adesso io la butterei un po' più in politica. A Pierluigi Battista chiederei conto dell'articolo di Marcello Sorgi, che non si dovrebbe fare naturalmente, perché chiedere conto a un altro dell'articolo di un suo collega? Però è curioso, cioè c'è una sproporzione tra l'affetto, la fiducia che abbiamo nella nostra Costituzione, ce l'ho anch'io poi alla fine, perché insomma in 60 anni non è che abbia fatto una cattivissima figura, anzi, dal punto di vista dei diritti fondamentali li ha protetti, li ha garantiti, ed è un collante, un cemento. La Costituzione tra l'altro si è allargata, adesso Fini è uno dei paladini, presidente della Camera, più grandi della Costituzione, ed è un merito della Costituzione che ha consentito che la destra evolvesse dalle prime posizioni di Fini e dei suoi amici e compagni o camerati alle posizioni di oggi. Quindi la Costituzione, la cultura costituzionale è riuscita a inglobare, a includere, addirittura adesso anche Bossi che non aveva grande considerazione del tricolore e della Costituzione, è paladino e garante insieme con Giorgio Napolitano della Costituzione, almeno dice di esserlo. Quindi la Costituzione ha vinto la sua battaglia strategica. Però, come ho detto prima, citando questo editorialista, insomma, che non è un passante, i costituenti hanno lasciato un lavoro da completare, così dice Sorgi, perché nessun governo riesce a realizzare il proprio programma e le due Camere si paralizzano a vicenda. Battista, come si fa? Effettivamente è paradossale il fatto che si decide che non si può cambiare la Costituzione, ma la Costituzione appunto è già stata cambiata, e appunto è stato fatto l'esempio del referendum del 2006, ma tutti ricorderanno che il vero scontro sul referendum del 2006 non fu sui poteri del Presidente del Consiglio, sul rapporto tra governo e Parlamento, eccetera, ma la vera questione che divise e che poi portò alla bocciatura di quella riforma costituzionale fu la devolution. Questo fu il vero, perché si disse che quella devolution avrebbe spaccato il paese, eccetera, eccetera. Sì, tutte balle, l'unità della patria, insomma, è in pericolo. Diciamo, sto ricostruendo, non sto dando una valutazione. No, quella la davo io. La Costituzione doveva essere cambiata anche con la famosa bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, e anche lì poi si arrivarono pasticci, presidenzialismo, premierato forte, non so se si ricorda tutte come queste no, discussioni estenuanti, ma anche lì non si ruppe tanto su questo, dove invece si trovò un accordo un po' pasticciato, ma un accordo si trovò, e anche lì fu demolita sul rapporto, diciamo, giustizia politica, cioè sulla questione della giustizia fu quello l'elemento che sfasciò la bicamerale. Per cui c'è un consenso abbastanza ampio sul fatto che appunto non c'è qualcosa che non torna di questo testo venerabile. Il presidente Scalfaro ha detto che la Costituzione va amata, forse va solo rispettata, non è detto che un pezzo di carta molto importante che è costato lacrime e sangue agli italiani, ma insomma non è che si debba amare una Costituzione. La Costituzione la si rispetta per i principi che sono fissati. Secondo me il paradosso nasce dal fatto che, appunto, lei prima faceva riferimento alla fine dei partiti storici che hanno scritto la Costituzione, però è anche vero che una parte politica si riconosce in qualche modo nel solco della tradizione politica e culturale di alcuni dei partiti storici che hanno fatto la Costituzione. Il grande sospetto viene fuori quando l'altra parte politica viene formata da partiti che con la Costituzione, diciamo, con la vicenda storica della Costituzione non hanno niente a che fare, no? Si è sempre detto. Ecco, a proposito di questo, Battista, io tirerei in ballo Gianluigi Paragone, che è vice direttore di Libero e conduttore di Malpensa Italia su Rai 2 e che ha una cultura, una formazione diciamo vicina a quella della Lega Nord, di Bossi, insomma, comunque della corrente nordista della pubblicistica e della cultura italiana. E appunto chiederei a Gianluigi Paragone, ma che è successo? Bossi è diventato anche lui, come Scalfaro, un tutore amante della Costituzione, non si limita più a rispettarla? Ma mi auguro di no, perché sarebbe il fallimento di 15 anni. Bossi è entrato in politica con il pallino del federalismo e su questa battaglia il Nord lo ha seguito. Purtroppo l'ha seguito soltanto una parte del paese e non tutta, perché il Sud, a quale tra l'altro un federalismo serio farebbe solo bene per far maturare una classe dirigente seria e non più ancorata all'assistenzialismo, ripeto, avrebbe potuto sposare quella causa, che tra l'altro gli appartiene. Mi auguro che Bossi stia soltanto giocando di tattica, io credo che così sia, nel senso che Bossi ha tentato più volte di cambiare, di prendere la via del federalismo con parole diverse, con toni diversi, però l'ha fatto quasi sempre da solo e questo non gli è mai riuscito, quindi quell'approdo federalista non è mai arrivato a compimento. Allora adesso quest'anno ha pensato di giocare la partita con il centrosinistra, libero di farlo. Io ho dei dubbi, io credo che siccome qui tutti stiano giocando sulla tattica e non sulla strategia, tutti hanno un progetto che riguarda il breve termine ma non il lungo termine, il centro-sinistra credo che sia un interlocutore inaffidabile, arriverà a fine partita ma all'ultima mano rovescia il tavolo e il federalismo non neanche Bossi lo vedrà stavolta. Perché secondo me siamo ancora fermi a parlare di Costituzione? Perché, come diceva Battista, come hai detto anche tu Ferrara, in più parti, noi siamo arrivati alla Seconda Repubblica non per che doveva essere la fase di cambiamento, di transizione e quant'altro, non perché c'è stato un processo politico di aggregazione o di maturazione, ma c'è stato un processo di sgretolamento di una vecchia classe politica. Quindi proprio perché è arrivata la Seconda Repubblica sull'onda del sentimento, della pancia, del popolo dei fax, delle manette e quant'altro, non c'è stato un progetto politico. E allora l'unica riforma che è stata fatta in questa Seconda Repubblica è quella delle parole. Noi abbiamo un premier che non è premier, ma è soltanto un presidente del Consiglio che, guardate un po', la prima carica dello Stato è il Presidente della Repubblica. La seconda è il Presidente del Senato, quel Senato che, diciamo tutti, dovrebbe essere abolito. Poi la Camera e poi il Presidente del Consiglio. La terza, quella Camera, poi arriva protocollo ingarbugliato. Questo Mona che passeggia, che invece dovrebbe governare l'Italia secondo i desiderati dei Come ha detto questo? Questo Mona che passeggia. Oh, mamma mia. Che parola. Che è il Presidente del Consiglio. Una volta alla radio non si usavano queste parole. Vabbè. Sì, ma noi siamo padani. Paragone, la ringrazio per la padanità e per la chiarezza con cui ha detto le sue idee. Bene, Paolo da Napoli sulla Costituzione e lo scontro tra i presidenti. Paolo da Napoli. Buongiorno direttore, a lei e ai suoi ospiti. Io non mi scandalizzerei tanto per come ha fatto la sinistra, a cui pure appartengo, per le affermazioni di Berlusconi, perché penso che nella nella realtà dei fatti un elemento importante della Costituzione, cioè l'equilibrio tra il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, si stia già nei fatti spostando nettamente a favore dell'esecutivo. Abbiamo cominciato con l'elezione. Quindi lei non è d'accordo con quello che dice Sorgi, che nessun governo è in grado di realizzare il proprio programma con il bicameralismo perfetto e questo assetto costituzionale? Ma io penso che nei fatti c'è comunque, al di là del bicameralismo, un legislativo esautorato. C'è naturalmente un premier, non ci sono più voti di preferenza, dunque tutti gli uomini del presidente. E tutto questo è legato non solamente alla destra ma anche alla sinistra, che ha voluto anch'essa questo. E negli ultimi tempi noto questo enorme ricorso ai decreti legge, che chiaramente, nonostante la grande maggioranza, dopo due mesi devono poi essere convertiti in legge e si pone il voto di fiducia. Cioè, nella sostanza, il legislativo è esautorato. Deve ratificare quello che dice il governo. Ecco, invece Berlusconi dice... qui si governa male. Il Presidente della Repubblica mi scrive una lettera in pieno Consiglio dei Ministri e mi dice se posso o non posso fare una certa cosa, mentre l'articolo 77 della Costituzione mi autorizza a decretare d'urgenza quando io penso che esistano i presupposti d'urgenza, e affida al Parlamento e solo al Parlamento, questa è la cosa che disse Berlusconi nella conferenza stampa, il potere di vagliare sulla legittimità dei decreti. Ma comunque, insomma, questo è una discussione complicata, ma è quella che dobbiamo fare naturalmente. Il Presidente della Repubblica ha molti poteri, lo chiedo a Pierluigi Battista e poi a Marta Cartabia, ha molti poteri, via, può sciogliere le Camere, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi è una specie di super sorvegliante negli affari di giustizia, presiede il Consiglio Supremo lì delle Forze Armate, quindi ha competenza su guerra, pace, questioni della difesa, eccetera, e poi ha un grande apparato quasi sacrale, insomma, di consiglieri giuridici, di persone che vagliano, perché promulga le leggi non possono essere promulgate senza la sua firma. E insomma ha molti, molti poteri, poi ha la moral suasion cosiddetta, cioè può veramente, insomma, è tutti i giorni nella televisione, è circondato da una certa sacralità e da un certo rispetto, come è normale che sia, perché rappresenta l'unità della nazione. Però, questo è il punto fondamentale, è politicamente irresponsabile, così lo definisce la Costituzione, politicamente irresponsabile, cioè il Presidente della Repubblica ogni volta che entra dentro le questioni politiche deve essere garantito e cautelato dal governo che esprime la maggioranza diciamo elettorale, nel senso della soggettività sovrana del paese, perché è la maggioranza del Parlamento ad esprimere il governo. Marta Cartabia, tutti questi poteri del Presidente come sono conciliabili con la sua irresponsabilità politica? Appunto, il dato della sua irresponsabilità politica e aggiungerei anche giuridica, perché il Presidente non può essere perseguito per gli atti commessi nell'esercizio delle funzioni, salvo ipotesi gravissime ed estreme, l'attentato alla Costituzione, sono il criterio da cui partire per interpretare questa ampia elenco di poteri che la Costituzione gli attribuisce, cioè proprio perché non c'è responsabilità, questi poteri non possono essere di governo diretto, sono poteri che vanno a completare l'esercizio di governo soltanto in funzione di garanzia, cioè il Presidente interviene per consentire un corretto funzionamento del governo e dell'indirizzo politico che spetta al governo e al Parlamento. Cioè non può essere una seconda figura che si sovrappone al Presidente del Consiglio. Vede, siamo arrivati proprio al dunque, perché lei con grande diligenza e con grande ed esperto senso delle cose, tecnicamente ci sta spiegando questa dialettica tra irresponsabilità e poteri di garanzia. Chiedo a Battista, ma nella percezione comune, oggi, dopo Cossiga, dopo Scalfaro, ma anche dopo Pertini, diciamo la verità, perché anche Pertini esercitava i suoi poteri in modo spesso quasi populista, insomma, no? Con una forte... Il Presidente della Repubblica in realtà è l'altro capo della nazione, è l'altro capo che indirizza politicamente la nazione, o mi sbaglio? Beh, certo, io poi questa storia che il Presidente della Repubblica sia sempre stato tenuto fuori dalle polemiche politiche, anche questa è una storia che forse andrebbe ridimensionata, perché se guardiamo agli ultimi, lei cita Pertini, ma insomma c'è stato Leone subito prima di Pertini che fu costretto a dimettersi sulla base di accuse tra l'altro false. Sul settennato di Cossiga non ne parliamo, gli ultimi due anni si chiese addirittura l'impeachment del presidente Cossiga. Scalfaro, la presidenza Scalfaro è stata una delle più incandescenti dal punto di vista politico e tutti ci ricordiamo. Poi c'è stata una parentesi dei sette anni di Ciampi, che in qualche modo, anche perché furono Ciampi, naturalmente tutto dipende anche dal momento originario, cioè nel senso che Ciampi fu eletto da tutti, quasi tutti, adesso con qualche eccezione, quindi era l'idea, l'unità nazionale la incarnava nel momento stesso della sua elezione. Il presidente Napolitano è stato eletto anche in circostanze molto particolari, lei si ricorderà, fu la maggioranza che aveva vinto con 24.000 voti, si decise di non convergere su un candidato che avrebbe coinvolto anche l'opposizione, insomma, diciamo, questa storia del presidente super partes è una storia che forse andrebbe riletta, certo. Ma io penso che bisognerebbe, per capire bene, per decifrare i movimenti di questi giorni, forse bisognerebbe risolvere il mistero della lettera. Lei che dice? La lettera, cioè, di Napolitano? Certo, perché lì il problema è tutto qui, cioè c'è una prassi, come è stata detta, che diciamo, quando un governo decide di fare un decreto, ma anche non so, anche un decreto, una legge, che c'è in qualche modo uno scambio appunto tra gli uffici giuridici del Parlamento, del governo, della Presidenza. Sì, insomma, in modo informale, riservatamente, il governo fa sapere le sue intenzioni, dice che va bene. C'è stato un episodio che viene raccontato in due modi totalmente opposti in questi ultimi giorni sulla vicenda del decreto su Eluana, ma sono due, a seconda di come sono andate veramente le cose, il giudizio è completamente diverso, perché il governo dice: noi stavamo lì, ci eravamo riuniti, stavamo preparando questo decreto, sapevamo che il Presidente della Repubblica avrebbe avuto molti problemi a firmarlo, nel mentre noi stavamo lì che discutevamo, ci arriva una missiva del Presidente della Repubblica che dice: guardate che tutto quello che voi state facendo è totalmente inutile, perché io vi boccerò questo decreto. Loro si sono arrabbiati, hanno pensato che il governo fosse stata lesa l'autonomia del governo, ed è successo quello che è successo. La versione del Quirinale è tutta diversa, cioè che era stato un parere che gli era stato chiesto da importanti esponenti del governo, che faceva parte di quella prassi, eccetera, eccetera. Lo scioglimento di questo enigma prima o poi dovrà avvenire, nel senso che... Ah no, secondo me non si scioglierà mai, tanto mai. Più che adesso hanno fatto già una subitanea pace, si rivolgono bene, eccetera, eccetera, abbiamo visto, insomma, non... Vabbè, non, quindi non resteremo con questa curiosità inappagata. Sì, assolutamente. Alfredo da Milano, una critica a Berlusconi, una critica amichevole a Berlusconi, mi pare di capire. Alfredo? Sì, dicevo che... A mio parere il punto centrale non è la modificabilità o meno della Costituzione, che mi sembra invece sia appunto ormai, come devo dire, già sciolto abbondantemente dalla prassi degli ultimi decenni, no? La Costituzione è stata modificata anche dal centro-sinistra, anche in maniera, come dire, corposa. Il problema, io penso, che nasca dalla cronaca e dall'atteggiamento, a volte così, dalle parole, a volte forse un po' imprudenti, di Berlusconi, quando a seguito di una polemica così violenta che è nata dal caso di Juan Englaro si è spinto a parlare di usare termini come sovietismo, eccetera. Insomma, io penso che a volte, come dire, un po' non si può pretendere poi dopo di essere compresi quando si va un po' troppo oltre le righe. Mi sembra un po' come la Lega quando invoca come dire, una sorta di, quando parla di immigrati o di moschee, no? Cerca, invoca, come devo dire, la comprensione di un atteggiamento addirittura moderato, quando poi magari invece va con l'urina di maiale a inondare i campi su cui dovrebbero sorgere. Rileva le contraddizioni di linguaggio e di temperamento, insomma, gli errori di stile. Ma a volte poi in politica il linguaggio finisce per essere un po' sostanza, perché poi dà un po' anche la misura del nostro atteggiamento, procura diffidenze o invece consensi. Insomma, il linguaggio in politica non è una variabile. Sì, è vero che con Cossiga c'era stato. Cossiga, innanzitutto, era lui il presidente, aveva dal suo ruolo picconato, come si usava dire all'epoca. Beh, quella sì, quella è una storia, un romanzo grandioso, shakespeariano. Teniamolo fuori. Adesso le contrapposizioni sono meno grandiose, sono più puntuali, insomma, ecco, da un certo punto di vista, sono più circoscritte. A paragone, lei sa che la Costituzione fu fatta col vento del nord, questa fu la formula di Pietro Nenni. La resistenza, le formazioni militari inquadrate dal CLN dell'Alta Italia, l'insurrezione, l'idea che dal nord veniva un messaggio di autonomia, di libertà, di sovranità riconquistata, di democrazia, perché insomma il sud, il centro-sud era più legato all'idea della fuga del re, all'idea dello sbarco, degli alleati, insomma sì, c'erano stati episodi importanti di autonomia popolare, però insomma il sud aveva, come dire, subito la guerra, mentre il nord se n'era, questa era la versione storica di quei mesi, si era impadronito del proprio destino e aveva dato all'Italia, vento del nord, questa forza costituzionale di cambiare tutto, di fare la Repubblica e di fare la Costituzione repubblicana. Secondo lei, che fa questo programma Malpensa eccetera, Italia, e che è un analista dei sentimenti del nord, il nord come la pensa? Il popolo delle partite IVA, l'establishment più o meno? Il popolo delle partite IVA è fuori da quel vento del nord di cui parlava Nenni. Il vento del nord reale in quegli anni era anche un nord bianco, che poi guarda caso quella componente cattolica che ha fatto molto per liberare il nord è stata dimenticata, è stata tradita, ci sono un sacco di libri in tal senso, è stata tradita e è stata dimenticata. Credo che in buona parte rischi di essere tradita anche questa volta, perché quell'ammodernamento dello Stato non c'è. Ripeto, noi siamo appesi alle parole, sentivo anche gli interventi ultimi dei radioascoltatori, e quindi siamo condannati alla fatica di Sisifo, arriviamo con il masso fino in cima e poi il masso deve rotolare un'altra volta indietro. Il Presidente della Repubblica in questo Paese ha una funzione che carta alla mano ha un senso, ma nella cosiddetta Costituzione materiale ne ha un altro, perché il Presidente del Consiglio ha molti più poteri. E dico di più, il popolo si aspetta dal Presidente del Consiglio che prenda in mano il governo e le sorti del Paese, tant'è che lo votiamo direttamente, quindi c'è un'indicazione precisa. Allora, vogliamo uno Stato presidenziale, cioè vogliamo che il Presidente della Repubblica sia veramente una guida? Si scelga questa via. Abbiamo paura di dare troppo potere? Allora tentiamo la strada francese, dove c'è un semipresidenzialismo. Vogliamo rafforzare il Presidente? Sì, io ho capito, la sua idea è abbastanza ragionevole. O più poteri al Presidente della Repubblica, che diventa da qui bisogna uscire. Certo, il sorvegliante massimo dell'esecutivo ed è politicamente responsabile perché viene eletto direttamente dal popolo, oppure ridimensionamento di questi poteri e premierato forte, come si diceva ai tempi della bicamerale di D'Alema. Che linea è caduta? Vado? Posso andare? Ah, ecco, no, c'è stato un piccolo incidente tecnico, era caduta una linea. Dicevo, perché i costituzionalisti sono considerati? Lo chiedo alla professoressa Cartabia, che fa parte di... Di nuovo? Ah, ma io sono in onda? Ah, questo è molto consolante che io sia in onda, pensavo di essere caduto io. Va bene, ritroveremo la professoressa Cartabia più in là. E Pierluigi Battista... La cultura costituzionalistica italiana è de sinistra o no? Beh, la Costituzione ha avuto, insomma, è nata in quel contesto storico che sappiamo, no? Cioè, tra l'altro, tutte queste discussioni è stato detto che i costituenti indebolirono, per dir così, la funzione del governo perché animati ancora da quel complesso del tiranno, no? Nel senso che erano venuti da 20 anni di dittatura fascista in cui il potere del primo ministro era un potere senza contrappesi, senza bilanciamenti e così via, per cui si fece un sistema, insomma una specie di prigione istituzionale in cui tutti i soggetti potessero dovessero concentrare molto potere dentro di sé. E poi effettivamente c'è una cosa che, oltre ai meccanismi istituzionali, la Costituzione appunto contiene una prima parte, che è quella dei principi, che è quella che si ritiene intoccabile, è stato detto, no? Mi pare che questo è stato detto, che c'è un'intoccabilità della prima parte della Costituzione, dove appunto l'idea è che quella è la custodia dei valori fondamentali. Ora è molto pericoloso, secondo me, che ci sia questa forma di intangibilità culturale, perché lì non si parla solo di diritti, di libertà, di lavoro e così via. Pensi che qualcuno disse a un certo punto che perfino i liberisti erano fuori dalla Costituzione, perché dato che un articolo della Costituzione sostiene che la proprietà privata è tutelata funzione soltanto sociale, in funzione della sua utilità sociale, sì. E che dunque Milton Friedman fosse venuto in Italia, avremmo dovuto arrestarlo. Ci sarebbe appena attentato alla Costituzione, sì. Quindi insomma è molto complicato. Davide da Torino pensa questo proprio, che bisogna cambiare la Costituzione ma non i principi fondamentali. È così, Davide? Pronto? Sì, signor Davide. Carrara, buongiorno. Ha sentito il vice direttore del Corriere Pierluigi Battista, dice attenzione all'intangibilità anche dei principi fondamentali della Costituzione, insomma. Cerchiamo di essere un po' più duttili, sempre nel rispetto per la Carta. Lei invece dice che i principi fondamentali bisogna mantenerli. Davide? Sì, pronto, buongiorno, signor Ferrara. No, sì. Io volevo fare un intervento. Io sono d'accordo con quello che ha detto in parte già il secondo governo Berlusconi e anche oggi, che la Costituzione è la carta fondamentale e su questo non ci piove. La prima parte è fondamentale, nessuno la vuol toccare, però sulla seconda parte si potrebbero fare dei miglioramenti, cambiare alcune cose, e sono perfettamente d'accordo. Per esempio... No, ma noi proprio di questo stavamo discutendo. Magari si può cambiare anche la prima parte, metterci più libertà e meno lavoro. Non so, sì. Si può, no? Ma teoricamente io si può. Io per esempio vedrei l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, e che non rimanga neanche più in carica 7 anni, che sono anche troppi. 4 come in America, come in Francia, come in tanti altri paesi. Così c'è anche il ricambio, ci possono andare anche altre persone. E per esempio quella manifestazione di ieri, che hanno fatto, per carità, ognuno è libero di fare, l'ho trovata un pochettino esagerata. Io che sono elettore di centrosinistra, esattamente dell'Italia dei Valori, cioè io appunto dissento assolutamente di quello che hanno fatto ieri. L'Italia dei Valori, però, secondo la cronaca di Aiello, si sono messi nelle prime file con le loro bandiere. Sì, lo so che non si sono visti, però loro sono un no, po' più... si sono visti, hanno oscurato le bandiere degli altri, no? Terribile. Ah. Sì, no, io sì, comunque sì. Io sono elettore, però sono critico, io non è che io non è che bevo tutto quello che dicono, io cerco di ragionare con la mia testa e trovo che questa proposta sarebbe una buona proposta, darebbe un senso al paese un po' più moderno e si potrebbe governare un po' meglio, e il Presidente della Repubblica avrebbe effettivamente dei poteri veri, non finti. Grazie molto, e anche per il modo spicciativo, sbrigativo, ma non grossolano con cui lei ha detto il suo parere. 4 anni, elezione diretta del Capo dello Stato e via. La libertà di tono, la libertà mentale dovrebbe sempre essere premiata, secondo me. È tornata Marta Cartabia? Sì, benissimo. Sono qui, era caduta la linea. Professore, il costituzionalismo è di sinistra, è così? Questo è il problema, che se continuiamo a discutere della Costituzione con un partito che la vuole modificare e l'altro invece che la vogliono difendere, si rischia di politicizzare la Costituzione. Io credo che sia vero quello che è stato detto da Pierluigi Battista, che la Costituzione è stata scritta con l'idea di non ripetere un governo troppo forte, con un problema di garanzie, ma è anche vero che nel corso di questi decenni di vita repubblicana le cose sono anche molto cambiate. È cambiato il sistema elettorale, il governo ha strumenti nei decreti legge, nei decreti legislativi, nel suo controllo delle Camere parlamentari di svolgere la sua politica. Si possono fare dei ritocchi sicuramente, per esempio il bicameralismo perfetto è un'anomalia che crea molti problemi e molte impasse, però sicuramente è vero che il nostro governo può fare, può governare. La cosa curiosa di questo caso Englaro è che è stato detto: qui è un decreto legge senza presupposti di straordinaria necessità e urgenza, ma guardiamo i numeri. Normalmente i nostri governi fanno 2-3 decreti legge al mese. Come mai proprio in questo caso non c'erano i presupposti? Come mai il governo non ha insistito di fronte a una lettera del Presidente della Repubblica? La domanda è: se avessero voluto, non avrebbero potuto spingere un po' di più? Beh, come non ha insistito? Hanno varato il decreto, più di così. Hanno fatto diventare un decreto legge, quindi non è entrato in vigore, non ha bloccato l'inevitabile che è successo successivamente, perché doveva passare dal Parlamento. Quindi è un po' tutta una vicenda curiosa questo spunto del caso Englaro, perché tra l'altro che andasse a finire in quella direzione si poteva capire già dalla sentenza della Cassazione dell'ottobre 2007, che è lì dove è stato posto il principio. Come mai si è risvegliato tutta questa attenzione? Beh, per la drammatizzazione, certo, che siamo nella società dello spettacolo. Poteva anche muovere un pochino prima. Non c'è dubbio, ha ragione il professor Cartabia, professoressa Cartabia. Paragone, oggi Libero pubblica a tutta pagina l'articolo 138 con un sapore polemico, sbarazzino, come nel suo stile, e dice, ma insomma, si può cambiare, e mette tutti i nomi dei padri della Costituzione che avevano votato questo articolo 138. Secondo lei, insomma, adesso per dirla chiara, dopo questo ennesimo conflitto istituzionale su un decreto legge e sulla questione se fosse urgente o no, addirittura un conflitto giocatosi tra la vita e la morte di una persona, appunto, non è il momento di decidere di cambiare qualcosa? Ma qui non si cambierà nulla, cioè sono molto pessimista, perché ogni volta stiamo a parlare ormai da anni sempre degli stessi problemi che sono stati abbondantemente messi a fuoco. Quando Ferrara domandavi i costituzionalisti sono di sinistra, la risposta è sì, perché la porta d'accesso della Costituzione, cioè l'articolo 1, dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi la matrice c'è, è chiara. Laddove si parla di libertà, prendo per esempio un tema altrettanto delicato, quali sono le intercettazioni, il principio costituzionale è sancito, ma è violato con una normalità che ormai è diventata persino imbarazzante. Siamo qua a parlare ancora di un decreto sulle intercettazioni. Va bene, grazie a Paragone, grazie a Pierluigi Battista, grazie alla professoressa Cartabia. Ci vediamo domani, ma prima di chiudere i ringraziamenti a Franca Fossati, a Gloria Guerrera in redazione, a Alessandro Chiappini, a Giorgio Mattei che sono in regia, la linea al giornale radio e poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì.